Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Con voi, come sempre, Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, la borsa va molto bene in tutta Europa, rialzi di oltre 2 punti percentuali a Parigi, Francoforte. Londra e Milano invece guadagnano 1,5 punti percentuali, l'America è ben intonata, più 1,4%. Devo dire, nonostante questa mattina la chiusura dell'Asia fosse stata più che debole, -2% Hong Kong, -2,5% il Giappone. Vedremo cosa sta ben intonando le borse. Vi dico subito che a Milano, a parte Fiat che perde l'1% e Geox e Automatica che perdono lo 0,90%, tutto il resto è più che positivo, con Pirelli +4%, Banco Popolare +3,5%, Autogrill +3,2%, CIR +3,2% anch'esse, Saipem +3%, Finmeccanica +3%, Prismian +2,7% e anche Mediaset. Parleremo in apertura, da un lato, di alcune dichiarazioni rese dal presidente dell'INPS, conti tutto sommato che tengono anche forse meglio di ogni attesa. Dall'altro parleremo di nuovo di scudo fiscale, ma anche di criminalità organizzata, di mafia, posizione molto dura della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia sull'economia, che è di fatto frutto dell'attività della criminalità organizzata. Poi avremo, come sempre, oltre che la borsa, anche altri aggiornamenti dei mercati, nel caso specifico un'intervista al numero uno di Prismian, e chiuderemo con le imprese. Perché dico le imprese? Perché ormai da settimane dedichiamo lo spazio della seconda ora alle 18:15 al mondo delle imprese e del credito. Ebbene, ricorderete, alcuni di voi ricorderanno, quando a fine agosto, nel decreto anticrisi, vi fu la famosa moratoria per cui le piccole e medie imprese potevano avere una moratoria sul debiti con le banche, sul pagamento delle rate, dilazione dei pagamenti e quant'altro, prolungamento delle scadenze di 9 mesi. Beh, è abbastanza sconfortante quello che esce dall'inchiesta che ha svolto una delle più importanti associazioni degli imprenditori sul territorio, quella di Brescia, con i propri associati, per capire se erano migliorate o no le condizioni con la banca. Vi terremo in sospeso, diciamo, fino alle 18:10, poi ne parleremo direttamente con il presidente degli industriali bresciani. 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. La buona notizia di oggi si chiama di nuovo petrolio in calo a 65,6 euro a quota 1,46,4. Jean-Claude Trichet, numero uno della Banca Centrale Europea, è tornato a dire la crisi non è finita, è ancora presto per pensare alla strategia d'uscita. Al di là della rima baciata, l'avevamo già sentito e ha ricordato comunque Trichet che la ripresa sarà molto graduale, che l'attuale livello dei tassi di interesse è appropriato, quindi tassi all'1%, anzi l'1% è di fatto in Europa. E ancora rimane, dice Trichet, l'allarme per quello che riguarda il credito alle imprese. Germania, di Germania parleremo in apertura, mi sono dimenticato di ricordarlo. Ebbene, chiaramente l'esito abbastanza sorprendente delle elezioni tedesche, soprattutto per come si sono ridistribuiti i pesi all'interno dei vari partiti, ha un suo aspetto anche economico. Non è un caso, non è un mistero che Angela Merkel abbia vinto, seppur calando il suo partito in termini percentuali, per un'idea di alleggerimento fiscale, di riduzione della tassa di successione, di alleggerimento fiscale sulle imprese, idea che adesso potrà portare avanti, dicono molti osservatori, in maniera più spedita, non dovendo più far parte o condividere il governo con la Gross Coalition, quindi con i socialdemocratici. Però vorremmo capire quali altre prospettive si aprono dal punto di vista economico per la Germania, visto che è il nostro primo partner commerciale in assoluto. E quando riprende la Germania, tendenzialmente riprende anche l'export delle nostre imprese. Allora, si diceva dell'INPS, come sta andando la gestione dell'Istituto Nazionale di Previdenza? Allora, quasi un milione 984.000 le domande di disoccupazione liquidate dall'INPS in un anno, cioè tra l'inizio di agosto 2008 e la fine di luglio 2009, sono aumentati gli assegni di disoccupazione del 52%. Questo lo ha sottolineato il presidente e commissario straordinario dell'INPS Antonio Mastro Pasqua presentando il bilancio dell'attività dell'ultimo anno, quindi più 52% in un anno gli assegni di disoccupazione. Ancora la cassa integrazione ordinaria ha fatto più 400%, quella straordinaria ha fatto più 86%. In media la cassa integrazione ha fatto un più 222%, però ripeto, la ordinaria più 400%, quella straordinaria più 86%. E comunque il commissario straordinario dell'INPS ha sottolineato l'efficacia delle risposte messe in piedi. Insomma, la cassa integrazione è un meccanismo abbastanza automatico, più volte lo abbiamo ricordato, anche alla luce dei continui suicidi che ci sono a France Telecom in Francia. È una vicenda quanto mai inquietante. Alcuni hanno fatto notare come in Italia per un'azienda come France Telecom, equivalente a France Telecom, sarebbe scattata subito la cassa integrazione, quindi non si sarebbe dovuti arrivare probabilmente a quel livello. Però insomma, vediamo, ne parleremo più avanti perché è una vicenda veramente dolorosa. Comunque sentiamo il commissario straordinario dell'INPS, microfono al nostro Vincenzo Miglietta. La risposta è stata più che soddisfacente. Ricordo solamente che in questi ultimi sei mesi sono state approvate, credo, una trentina di norme, di piccole riforme degli ammortizzatori sociali, che hanno visto sempre e comunque l'unico istituto a doverle guidare e gestire l'INPS. Noi abbiamo costruito una banca dati percettori in tutta Italia, quindi tutto viene gestito in via telematica e informatica. Paghiamo entro 5 giorni qualsiasi richiesta o di disoccupazione o di cassa integrazione a pagamento cosiddetto diretto. Ad oggi, continuo a ribadire, non abbiamo nessuna tensione nel Paese, non abbiamo nessuna tensione, anzi stiamo già in una fase nella quale il meccanismo si è rodato, perché comunque erano nuove iniziative, erano nuove modalità, e le aziende cominciano a trasmettere telematicamente, noi facciamo i controlli e paghiamo immediatamente. Quindi grande rispondenza del Paese e soprattutto dell'istituto. La cosa più importante però per quello che riguarda l'INPS, al di là della sua attività durante questa difficilissima congiuntura, è anche il bilancio, come stanno andando i conti dell'INPS. Il bilancio previsionale 2010 prevede un risultato positivo, e anche qui prima o poi cercheremo di capire, perché ci hanno sempre detto che l'INPS e la nostra previdenza era un disastro, un risultato positivo per 3 miliardi di euro, un avanzo finanziario superiore ai 4 miliardi e mezzo. Sempre il presidente e commissario straordinario Antonio Mastrapasqua, sempre a microfono il nostro Vincenzo Miglietta. Bilancio previsionale 2010 fatto sui dati del DPF, quindi dati che sono stati già migliorati nel momento in cui è stata presentata la finanziaria, rappresenterà un risultato esercizio positivo per circa 3 miliardi e un avanzo finanziario di più di 4 miliardi e mezzo, quindi numeri che comunque già saranno migliorati quando i dati della finanziaria saranno approvati, e quindi sicuramente registreremo dei dati più positivi e quindi dei miglioramenti dei saldi. Restiamo in tema di occupazione, o meglio disoccupazione, problema serio anche nel 2010, la disoccupazione, l'ho detto oggi la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che teme che si possa arrivare al 9,5% di disoccupati l'anno prossimo. Sentiamola su questo tema al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Il problema disoccupazione stia aumentando, lo sappiamo, anche come ufficio, come centro studi Confindustria, noi abbiamo stimato che il tasso di disoccupazione possa arrivare al 9,5% nel 2010, quindi sono dati, come dire, che più o meno sono già nei numeri. Ecco, bisogna fare molta attenzione, servono gli ammortizzatori sociali, serve formazione per aiutare le persone che perdono posti di lavoro, magari a reinserirsi in settori in aziende, in settori più promettenti, e serve anche un supporto alle imprese che in questo momento riescono a mantenere i posti di lavoro. Quindi il dato è negativo, però è un dato migliore rispetto ad altri paesi europei ed era già sostanzialmente stimato. Sappiamo che l'effetto della crisi sull'occupazione arriva sempre con alcuni mesi di ritardo e lo stiamo certamente vivendo proprio in questi giorni. Ma non ha parlato solo di disoccupazione oggi la Presidente Confindustria, perché l'intervento che avete appena ascoltato è realizzato a margine della presentazione del libro Mafia Pulita. Presenta la Presidente Confindustria Marcegaglia, ma anche altri esponenti del mondo politico. E tra l'altro la Marcegaglia ha detto una cosa, a mio avviso, abbastanza forte, cioè la ricchezza del nostro paese, le entrate dello Stato e tutti i dati economici italiani sono falsati dall'enorme dimensione dell'attività mafiosa e sommersa. Tra l'altro il giro d'affari, secondo quanto ha ricordato oggi la Marcegaglia, della mafia intesa in senso stretto equivale a 175 miliardi di euro, incredibile. Ma raggiunge i 400 miliardi di euro se si considera l'attività sommersa e illegale in generale. Ecco perché, come ha ricordato, serve un patto nazionale contro l'illegalità. Serve la politica, serve qui sì veramente una sorta di patto nazionale tra le varie forze politiche per affrontare seriamente questo problema, ma credo veramente, siamo convinti di questo, che serve soprattutto una grande mobilitazione dal basso. Se non cambia la cultura, se non si comprende a livello di imprenditori, per quanto ci riguarda, ma anche a livello dei cittadini, che una situazione come questa condanna tutti alla povertà, condanna tutti a una situazione negativa soprattutto per le future generazioni, noi non usciremo da questa situazione. E dicevo che al convegno e alla presentazione del libro vi erano anche vari esponenti del mondo politico, a partire dal presidente della Camera Gianfranco Fini, che ha detto: nel passato ci sono state mille testimonianze che dimostrano non solo come il denaro, la pecunia non olet, il denaro non abbia profumo, non puzzi, ma anche il voto. E Fini ha ricordato che sarebbero 1.800.000 i cittadini italiani coinvolti in maniera diretta o indiretta nell'economia mafiosa, quindi e probabilmente anche diretti nel loro voto politico da quelle che sono le indicazioni mafia, camorra e 'ndrangheta. Il contrasto alla criminalità economica passa anche comunque attraverso un'adeguata normativa fiscale, e su questo è stato molto duro il procuratore Francesco Greco di Milano, non alla presentazione del libro ma durante il Festival del Diritto di Piacenza. Greco è stato titolare nel passato di inchieste tutte legate ai reati finanziari, penso al crack Parmalat o alla scalata su Anton Veneta, ed è andato a gamba tesa, va detto, su un tema che trattiamo da settimane, facendo ascoltare tutti i punti di vista: lo scudo fiscale, le obiezioni non tanto allo scudo in sé, ma come è stato modificato, allargata la tutela verso i crimini commessi, falso in bilancio, ma non solo, anche distruzioni con documenti contabili e quant'altro. È stata molto criticata da vari osservatori. Sentiamo Greco, che ha detto che lo scudo fiscale rischia di trasformare il nostro paese in una sorta di paradiso fiscale. Noi abbiamo una situazione un po' particolare in Italia. Io qualche volta in passato l'ho definita l'Italia come un paese offshore, no? Perché se ci pensate bene, quale paese assicura l'impunità fiscale che assicura l'Italia? Voi pensate che in Svizzera siano meno seri nel far pagare le tasse? O anche in Liechtenstein? Quale paese in Europa è più trasparente nel sistema bancario, ovvero meno trasparente nel sistema bancario di quello italiano? Se io vado ad aprire un conto in Svizzera o in Liechtenstein, devo indicare chi è il beneficiario effettivo ed economico di quel conto. In Italia no. In Italia posso aprire un conto con una società offshore, nominare un procuratore svizzero e nessun banchiere o bancario, scusate, mi viene a chiedere chi è l'effettivo proprietario di quel conto. Riciclaggio. Noi siamo, credo, l'unico paese, l'unico paese forse in Europa che ancora non ha adottato la normativa sull'autoriciclaggio. Non, è un fatto tecnico, non voglio perdere tempo, però nella sostanza noi siamo un paese particolare, un paese nel quale il falso in bilancio è stato sostanzialmente depenalizzato, è stato privatizzato tutto il comparto dei reati societari che sono tutti procedibili a querela. Ecco, allora c'è una dimensione domestica su cui il legislatore e le forze politiche dovrebbero intervenire per contrastare la criminalità economica. Allora, vedo di nuovo molti messaggi. Perché combattere l'evasione, i paradisi fiscali, come si chiede anche nei G20, nei vari vertici, e poi scrivono alcuni, si vuole trasformare l'Italia in un paradiso fiscale. Ricordo anche quanto scrivono per altri ascoltatori: se si volevano questi soldi, l'unico modo era lo scudo, c'è bisogno di far tornare questi capitali che altrimenti sarebbero rimasti all'estero, capitali illecitamente e illegalmente portati all'estero, ma lì sarebbero rimasti, almeno in questo modo lo Stato punta di incassare 3-4 miliardi di euro. Tutto giusto, tutto vero, sono diverse posizioni. Mi limito a far notare che forse si poteva, una volta che si decide di fare lo scudo, fare lo scudo, lo fanno la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, si poteva forse essere un po' meno generosi, magari il 10% invece che il 5%, perché insomma questi sono capitali illecitamente trasportati all'estero e quindi non hanno mai pagato tasse nemmeno in Italia. E si poteva essere un po' più stringenti sulle norme antiriciclaggio, perché il sospetto forte, fortissimo, che parte di questi siano soldi della mafia, dell'andrangheta, della camorra, a noi purtroppo resta. Andiamo avanti, la Germania, occupiamoci di Germania che è meglio. La Germania vira a destra in qualche modo. In realtà quello che è emerso dal voto tedesco è un riposizionamento, un riequilibrio di tutti i partiti della Germania. Perché è vero che Angela Merkel resterà cancelliere della Germania, però ha perso un po' più di un punto percentuale e comunque la CDU incassa il peggior, quindi i cristiano democratici, il peggior risultato dal 1949. I veri sconfitti, però l'avete letto, sono i socialisti della SPD, che sono crollati al 23%, hanno perso il 10%, il livello più basso del dopoguerra. E allora chi ha guadagnato? Beh, hanno guadagnato i liberali dell'FDP di Guido Westerwelle, più saliti al 14%, 5 punti in più, e la sinistra più estrema, non so come chiamarla, la sinistra non dei socialdemocratici, la Linke, Oscar Lafontaine, quasi il 12%, e anche i verdi sono saliti di 3 punti, praticamente tutti i voti dei socialdemocratici là se ne sono andati. E l'alleanza che si profila però questa è a volte più di centrodestra, non più grosse coalizioni, non più coalizione allargata, ma cristiano democratici, liberali appunto i liberali dell'FDP. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, buonasera. Buonasera. A noi interessa la componente, le conseguenze economiche di questo voto tedesco. Vorrei capire che cosa cambierà. Abbiamo letto in primo luogo la Merkel avrà mano libera, maggiore autonomia nell'andare avanti con la riduzione fiscale da un lato, e eliminare per esempio alcune tasse, come ridurre la tassa di successione. Sì, credo che ci siano due aspetti da mettere in luce in questo momento. Certamente questa coalizione è una coalizione più omogenea di quella precedente. Quella precedente era socialdemocratica democristiana, questa invece è democristiana liberale e più omogenea. Tutti e due i partiti vogliono ridurre le tasse e quindi non ci sarà grande problema per metterli d'accordo, l'impressione. Il problema sarà sulla tempistica e sarà sull'ammontare della riduzione, tenuto conto del fatto che la Germania è alle prese con una deriva dei conti pubblici e con un forte aumento del debito. e quindi ci sarà probabilmente gioco tra le parti e ci sarà un accordo su come agire. Oggi la signora Merkel ha fatto capire che riduzioni delle tasse non saranno immediate proprio a causa dell'aumento del deficit. E questo è il primo aspetto. Su aspetti invece più generali di riforme economiche, i due partiti hanno posizioni leggermente diverse, per esempio sul mercato del lavoro. I liberali vorrebbero avere una riforma più ampia del mercato del lavoro in senso più meno restrittivo, più liberale, mentre la signora Merkel è a capo di un partito, la CDU, che ha una forte componente sociale e che ha dato l'impressione nelle ultime settimane di non volere riforme troppo radicali, in particolare in questo frangente. Quindi, per fare la somma di tutto, ho l'impressione che la nuova coalizione che prenderà il potere in Germania sarà una coalizione certamente più riformista di quella precedente, ma probabilmente meno riformista di quanto non si possa pensare. Le cause, o meglio, le variabili economiche in questo voto. Poi vedo che c'è qualcuno che scrive ancora sullo scudo fiscale, sul fatto che non prendiamo posizioni. Rispondiamo tra qualche minuto, concludiamo l'approfondimento prima. Abbiate pazienza, ma andiamo per ogni tema ha bisogno del suo spazio. Dicevo, Beda Romano, le variabili economiche che hanno portato a questo voto, così possiamo leggerle anche in chiave prospettica. Si è detto, la Germania non ha voluto cambiare leader, di fatto il cavallo in corsa nel momento in cui sta cercando faticosamente di riprendere e di risalire la china dopo questa recessione pesantissima, questa crisi pesantissima. Non si è voluto toccare la guida dal punto di vista politico. Dall'altro però il voto liberale, secondo molti, è stato un modo per dire al governo, anche ai cristiano democratici, attenzione, la Germania non vuole un eccesso di Stato dentro il mercato, il timore che insomma tutti i piani di salvataggio messi in atto in questi mesi portino di fatto poi a una socializzazione delle imprese, mettiamola un po' così. Sì, ci sono modi e modi di cercare di capire come mai i liberali hanno avuto una vittoria così netta, quasi il 15%, il risultato migliore è dal 1949. Peraltro il sistema elettorale è un sistema complicato per cui la gente poteva fare dei voti strategici in un certo senso, votando per un partito con la prima scheda e per un altro partito con la seconda scheda. Non entrerò in questi particolari. Ti ringrazio. Più in generale ho l'impressione che ci sia in questo paese un filone liberale che in questa circostanza è emerso piuttosto nettamente ed è emerso proprio in un momento in cui lo Stato, per un motivo o per l'altro, è dovuto intervenire nell'economia per salvare le banche o salvare le imprese. Questo filone liberale è sempre esistito, risale per molti versi agli anni 30, agli anni 20, all'ordoliberalismus di quegli anni. È una dottrina economica che si è opposta all'economia dirigista di stampo nazista e proprio per questo motivo all'indomani della sconfitta nel 1945 è tornata in auge e da allora è sempre rimasta piuttosto viva nel dibattito di politica economica tedesca, ma naturalmente in questo frangente ha ripreso vigore per i motivi che dicevo prima. Quindi la vittoria dei liberali è una vittoria di questo tipo per molti aspetti. Credo peraltro che ci sia stato un travaso di voti dai democristiani a favore dei liberali e questo spiega anche in parte la debolezza dei democristiani relativa naturalmente in occasione di queste elezioni. Cioè dici dai democristiani verso i liberali e dai socialdemocratici verso la Linke, verso la sinistra più sinistra, e questo ha portato a un indebolimento della parte centrale. Comunque il governo è chiaro, le riforme su cui si muoverà alla fine Angela Merkel sono quelle delineate, soprattutto far ripartire l'economia attraverso uno stimolo fiscale, forse come tu ricordavi non così riformatore questo governo come avrebbe voluto, perché dovrà venire a compromessi anche con i liberali. Grazie a Beda Romano in collegamento con noi da Francoforte. A Allora, alcuni sms al 349-238-6666 di critica perché non prendiamo posizione sullo scudo fiscale. E avete capito bene, non prendiamo posizione perché questo programma non prende posizione, fa ascoltare le diverse opinioni. Avete appena sentito un PM come Francesco Greco essere durissimo sullo scudo fiscale, sulla mancata lotta all'evasione in Italia, ritenendo che l'Italia diventi in questo modo una specie di paradiso fiscale essa stessa. Abbiamo ricordato in altri casi invece che lo scudo permette di far rientrare capitali che altrimenti resterebbero fuori, quindi ha questo vantaggio. Ci siamo permessi di ricordare che, visto che in Francia si paga il 20% della somma, in Gran Bretagna il 44%, in America il 50%, il 5% chiesto a chi fa rientrare i capitali illegalmente e illecitamente porti all'estero è un po' poco, secondo molti osservatori. Si poteva chiedere il 10%, tanto una volta che tu hai poi condonati i reati di omessa e falsa dichiarazione, il falso in bilancio, la distruzione di scritture contabili, il rilascio di fatture false, insomma tutto un insieme di reati tributari e penali. Addirittura l'emendamento Flores ha levato anche il fatto che gli intermediari fossero obbligati a denunciare la provenienza sospetta di riciclaggio di alcune somme. Insomma, con tutti questi vantaggi dal punto di vista dei condono dei reati tributari e penali, si poteva, secondo noi, chiedere forse il 10%, e questi soldi sarebbero rientrati lo stesso. Almeno avremmo guadagnato 3-4 miliardi di euro in più noi come contribuenti. ...17:39 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa. Giustamente alcuni ascoltatori ricordano che negli altri paesi lo scudo fiscale non garantisce l'anonimato, avete ragione, né in Francia né in Gran Bretagna né in America. Altri ricordano che gli scudi fiscali degli altri hanno portato molto molto meno gettito, anche perché forse erano meno scudi, coprivano meno rispetto ad altri. Io devo ribadire la nostra linea, che dall'inizio è sempre la stessa, cioè se si vuole fare lo scudo è inutile poi fare le belle verginelle, lo scudo deve dare dei vantaggi, se no i capitali perché li riporti. A nostro avviso, e secondo molti osservatori, gli emendamenti proposti dal senatore Flores del Popolo della Libertà, che hanno esteso rispetto alla formulazione iniziale di questo scudo tutto un insieme di coperture, all'inizio riguardava solo il reato di omessa o falsa dichiarazione nella versione originaria. Poi si è esteso anche altri reati tributari e penali, il falso in bilancio, la distruzione di scritture contabili, il rilascio di fatture false, e poi è stato levato ai professionisti, agli intermediari, l'obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio. Ecco, questo forse l'ha allargato un po' troppo. E poi ripeto, visto che lo si fa per i soldi, ragioniamo anche di soldi, e se si decide che questi soldi debbano entrare in Italia, tassiamoli un po' di più, perché il lavoro, il reddito del lavoro è tassato al 43-44%, e quello anche da impresa. Poi chi specula con gli investimenti in borsa al 12,5% di tassazione, e lì io ricordo però la levata di scudi quando il governo centrosinistra provò aumentare quella tassazione, e chi esporta i capitali legalmente e illecitamente e li fa rientrare a solo il 5%. Bah, diciamo che si poteva portarlo almeno a 12,5. Comunque la borsa. Vedo anche addirittura sms di imprenditori che sul tema dicono: ma insomma, qui da noi con gli studi di settore ti multano se sei di qualche punto percentuale sotto la tassazione prevista, e poi si dà la possibilità di pagare solo il 5%. E non so, non possiamo però parlare ogni giorno dello scudo fiscale, lo facciamo da settimane. La borsa, dicevo, più che buona la giornata oggi in tutta Europa. Francoforte chiude e festeggia in qualche modo la borsa e il risultato elettorale con un più 2,8%, la migliore tra tutte le borse europee. Parigi più 2,3%, Londra più 1,4%, Milano più 1,6% sul FTSE MIB, più 1,5% sul FTSE All. Banco Popolare più 4,40%, miglior titolo. Pirelli più 3,7% come stima Microelectronics, il 3,5% lo guadagna Autogrill, ma anche le CIR e Finmeccanica, il 3% è il rialzo di Ansaldo e di Saipem, Prismian più 2,8%, Mediaset più 2,7% come Tenaris. Chi ha perso oggi, devo dire, poca roba, solo Fiat l'1,1 e l'automatica lo 0,7%. Andrea Fontana, buonasera, Radio Corso 24. Allora, Pirelli e poi anche e soprattutto Banco Popolare. Pirelli è stato a lungo la migliore del FTSE MIB, è da qualche giorno che la società riceve delle buone indicazioni da parte delle case di investimento, direi che certamente l'innesco per questo maggiore fiducia, maggiore ottimismo anche da parte degli analisti è stato certamente nella prima insomma intorno alla metà di settembre, quando è emersa la possibilità da parte di Pirelli di concludere l'anno con un risultato positivo che dava la possibilità che darà la possibilità di distribuire un dividendo agli azionisti. La decisione chiaramente verrà presa in primavera, ma questo ha dato fiducia al mercato. Oggi Deutsche Bank ha migliorato la raccomandazione a comprare, ecco perché Pirelli ha guadagnato così tanto. Report delle banche, non ne posso più. Datemi qualche altro motivo, non i report delle banche, perché non ce la facciamo più. Non voglio tornare come nel 2007, non ce l'ho con te Andrea, in cui il mercato si muoveva su questa così sta roba strana dei report di banche che poi hanno imbarcato 20 miliardi di euro Deutsche Bank, penso 15, di prodotti farlocchi di carta tossici. Allora, per favore, ragioniamo sulle prospettive industriali. Comunque, tu giustamente, insomma, ambasciatore non porta pena, ma io ogni tanto diciamo ne ho le pene piene di questi report. Vai avanti Andrea, prego, scusa. Per quanto riguarda invece il Banco Popolare, certamente oggi non è stata una giornata positiva un po' per tutto il settore bancario, ne abbiamo inficiato il Banco Popolare anche perché c'è l'attesa per qualche operazione straordinaria, nel senso di qualche dismissione che porti in cassa al Banco Popolare. La prima è quella di Factorita, società di factoring del gruppo, che porti nelle casse del gruppo Veneto liquidità importante per il sostegno dell'istituto. E dall'altro canto positiva anche la risposta del mercato su Unicredit e Intesa San Paolo, domani attese alla risposta definitiva sulla questione Tremonti Bond, perché domani sono in programma entrambi i CDA delle principali banche italiane. Unicredit, Intesa e Banco Popolare. Tra l'altro proprio il presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli, ha detto che è prematuro dare per scontato un esito che solo domani si conoscerà. Questo era riferito al fatto se Intesa userà o no i Tremonti Bond. Non li vuole nessuno, nel senso che Unicredit e Intesa stanno cercando di finanziarsi sul mercato pur di non usare i Tremonti Bond. Devo dire, e lì ha ragione il ministro Tremonti, che queste obbligazioni, questi prestiti dello Stato erano pensati non per dare un vantaggio alle banche, ma perché le banche li girassero alle piccole e medie imprese, per cui non basta dire no, ma riusciamo a finanziarci sul mercato, perché non erano fatti per finanziare le banche, erano fatti perché le banche avessero soldi a sufficienza per mantenere i prestiti alle imprese ed eventualmente a quelle sane concederne anche di altri. :17:49, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, chiudiamo la pagina di borsa. Andrea Fontana, al di là dei casi bancari che comunque hanno ben intonato tutto il mercato, c'è stato oggi un buon andamento anche di, lo ricordavamo, Finmeccanica più 3,3%, Ansaldo più 3%, Saipem più 2,80%, Prismian più 2,82%. Tra l'altro su Prismian, ricordo l'amministratore delegato Valerio Battista, oggi in un'intervista, scusatemi, al Sole 24 Ore, ha ribadito di avere intenzione di investire 1 miliardo di euro di liquidità per finanziare la crescita e ha sottolineato di puntare ad acquisizioni in aree di forte crescita come l'Est Europa, in particolar modo la Russia. Temi ribaditi oggi al microfono la nostra Anna Marino durante l'Energy Summit organizzato qui al Sole 24 Ore. Pensate solo alla Russia o altro? No, fondamentalmente stiamo parlando sempre di BRIC, quindi Sud America, ma Sud America ci siamo già, siamo molto forti. Russia, Cina e India sono chiaramente i paesi che necessiteranno di consumi di energia pro capite, perché poi contano quelli, piuttosto elevati. e la Cina che è molto assetata. La Cina sta andando molto bene, tra le altre cose il governo cinese ha continuato a investire pesantemente nelle reti proprio di trasmissione, nonostante la crisi. Questo ha permesso, fra le altre cose chiaramente, a sostegno dell'economia, di avere un'economia cinese ancora molto in tiro. Vero è che abbiamo messo in servizio la terza linea alta tensione in Cina proprio recentemente e stiamo pensando a ulteriori espansioni perché il mercato continua a essere importante. Così appunto Valerio Battista, ministro delegato del gruppo Prysmian. Andrea Fontana, tra chi ha perso troviamo soprattutto Fiat -1%, l'automatica -0,7%, Geox -0,6%. Allora, Fiat, Geox, manco te lo chiedo perché so che c'è un report anche qui negativo di Citigroup. Capirai, Citigroup, 24 miliardi di svalutazioni per investimenti effettuati, salvata dallo Stato americano, ancora parla. Vabbè, dai, Fiat. Sì, Fiat si è mossa stranamente in controtendenza rispetto al settore dell'auto, oggi positivo, tant'è vero che l'indice europeo ha guadagnato l'1,8%, Fiat ha comunque messo a segno una buona performance nelle ultime settimane, oggi una correzione che ci può stare anche se rimane l'attesa di quello che è il piano Chrysler e di quello che sarà l'impatto per il gruppo torinese dell'investimento negli Stati Uniti. Lì gli operatori iniziano appunto a fare i calcoli sulle stime dei risultati per Fiat di questo investimento e come saranno appunto anche le strutture produttive di Fiat stessa. Quindi oggi è una giornata d'attesa per Fiat, mentre il settore auto molto positivo nel resto d'Europa. E quindi pesa ancora di più questo calo dell'1%. I migliori in assoluto, CDC Point +23,6%, aeroporto di Venezia, ma che succede? La Save +14%, Gemina +9,2%, anche l'aeroporto toscano +8,70%, poi bene Elica +7,5%, Seat +6%, tra chi più ha perso Gabetti -3,6%. Allora, aeroporto di Venezia, Save, ma vogliamo fare anche Seat +6%? Direi sicuramente un discorso comune meritano le società di gestione aeroportuale, certo. Quindi come ricordare l'aeroporto di Venezia, ma anche Gemina che controlla l'aeroporto di Roma e SAT che gestisce l'aeroporto di Pisa. Questa prospettiva per cui sono circolate indiscrezioni di un aumento delle tariffe o come le chiama il ministro delle infrastrutture Matteoli, un adeguamento delle tariffe aeroportuali che in Italia secondo il ministro sono le più basse d'Europa, ha dato fiato ai titoli delle società appunto di gestione aeroportuale e si sono mosse in positivo anche Seat, come tu ricordavi, insomma un recupero che per questo titolo sembra dare fiato un po' alla situazione finanziaria molto stressata di questa società, anche se i problemi sono certamente altri, non solo il recupero del titolo. Sì, direi proprio di sì, però insomma da lì già c'è un po' di respiro. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Arriveremo alle imprese e alle banche perché sarà il tema della seconda mezz'ora, sia per il rapporto e l'indagine condotta dagli industriali di Brescia che hanno scoperto che la situazione o non è cambiata o è addirittura peggiorata per la maggior parte degli associati che hanno sentito, sia per le dichiarazioni rese anche da vari esponenti oggi nel rapporto banche e imprese. Vorrei chiudere questa prima ora con l'ultimo appello, se possibile, sullo scudo fiscale. Abbiamo detto e lo diciamo da 2-3 settimane che se uno vuole fare lo scudo fiscale, uno può essere contrario allo scudo per definizione e vabbè, se però uno decide di fare lo scudo fiscale è chiaro che un vantaggio lo devi dare, che poi alcuni lo definiscono un condono per i capitali all'estero, sì vabbè, mi sembra una questione di lana caprina, condono o scudo, sempre lì siamo, dei vantaggi li devi dare. I vantaggi sono stati allargati dall'emendamento del senatore Fleres che li ha introdotti, e senatore Fleres della PDL, senatore siciliano, ha introdotto tutto un insieme di reati che oltre a quelli originari di omessa e falsa dichiarazione vengono di fatto condonati, cioè viene applicato lo scudo, falso in bilancio, distruzione di scritture contabili, rilascio fatture false e altri reati tributari e penali. E così come è scomparso l'obbligo per gli intermediari, le banche, le SIM, le SGR, di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio. Avete anche ragione nel dire che il 5%, tanto nella maggior parte dei casi, lo paga l'intermediario, cioè chi vi offre il servizio vi paga anche il 5%. Ripeto, se si vogliono fare entrare i capitali occorre dare qualche vantaggio, ma ad avviso di molti i vantaggi sono fin troppo alti, considerato che nel resto d'Europa non è previsto l'anonimato quando si fa lo scudo e che la tassazione che si paga è dal 20 al 50% come in America, visto che l'America viene spesso usata come modello per alcune cose, usiamola sempre. Concludo dicendo che se si vogliono far entrare questi soldi su 60-100 miliardi di denaro che illecitamente ma andato fuori rientrerà, guadagnare 3-4 un po' pochino, si poteva puntare almeno al 10%. Questa è la nostra opinione. Minuti, inizia la seconda parte di Focus Economia e allora, dopo aver parlato di alcuni dati di carattere congiunturale, dell'esito, della parte economica nell'esito elettorale tedesco e anche in che cosa questo potrebbe voler dire sulle riforme fiscali ed economiche in Germania, la borsa l'abbiamo commentata buone, oggi tutte le borse europee con la borsa migliore proprio quella tedesca, più oltre il 2,5%, quasi il 3% di rialzo, più 2,80, bene anche Parigi, più 2,3, Milano più 1,6%. Poi qualcuno mi scrive dicendo, ma insomma, anche se non le piace, queste banche sono state salvate, il riferimento è alle banche d'affari americane che sono tornate, e non solo americane, anche svizzere, europee, che sono tornate a dare giudizi sui titoli di borsa, ma non si erano mai accorti di quello che stava capitando in casa loro. E dicevo, dice un ascoltatore, che le piacciono, dal momento in cui le banche d'affari sono state salvate, hanno il diritto di continuare a fare dei report, ossia delle analisi sui titoli. Sì, per carità, nessuno ha detto che siano illegali, però quando Citigroup ha perso 28 miliardi l'anno scorso di dollari, ha avuto 45 miliardi di dollari di aiuti pubblici, perché se no saltava per aria, era praticamente fallita. Ora, insomma, vedere che si mette a dare dopo neanche qualche mese giudizi sull'andamento dei titoli e non sappiamo quanti ne ha in portafoglio, che conflitto di interessi ha, sappiamo che tutta questa valutazione in casa propria non ha saputo fare, se no quantomeno avrebbe dovuto lanciare un warning su se stessa, no? Attenzione, sto per fallire. Ecco, io lascerei queste cose così, per chi si vuole divertire e bruciare a livello professionale, non per gli ascoltatori, per chi vuole investire in borsa pensando che la borsa rispecchi poi nel medio termine la solidità e l'andamento di un titolo, non così la speculazione di una banca d'affari. Comunque, torniamo invece sul tema delle banche, questa volta non più lo scudo fiscale, basta, l'abbiamo già chiarito il nostro pensiero, rapporto banche-imprese, e oggi del rapporto banche-imprese se ne è occupato anche un PM, il procuratore di Milano Francesco Greco, che, lo ripeto, è stato titolare di molte inchieste di carattere finanziario, penso a Parmalat ma anche ad Anton Veneta. Il giudizio di Francesco Greco sullo scudo fiscale, sull'idea di un'Italia che si sta trasformando in un paradiso fiscale, lo abbiamo già fatto sentire, non torniamo su quello. Mi interessa invece quanto ha detto su quello che le banche stanno facendo. Ripeto, Greco è il PM che a Milano, quindi nella piazza finanziaria più importante d'Italia, si è occupato dei principali casi di reati finanziari, i furbetti del quartierino, la scalata Anton Veneta, il crack Parmalat, ma non solo. Sentite cosa dice un PM come Francesco Greco del rapporto banche-imprese, e quindi lo dice lui, e dicendo in sostanza che sono tornate a fare quello che facevano prima della crisi. Ho la sensazione che rispetto alla crisi economica i banchieri abbiano fatto un po' come le canne al vento, no? Hanno aspettato che passasse quella che i marinai chiamano buriana e adesso stanno riprendendo a fare le stesse cose di prima. Ci sono nuovi prodotti derivati sempre più complicati, incomprensibili, e su questi fanno gli utili. Le banche negli ultimi 15 anni erano diventate dei supermercati dove si andava lì, non è che gli interessasse molto l'attività normale di una banca, erano dei venditori di prodotti finanziari, prodotti fiscali. Uno andava lì, dice voglio 4 derivati, 3 prodotti fiscali, e se ne andava via. Dei supermercati. Allora, vogliamo capire e intervenire sulla funzione delle banche? Sì, devo dire, poi il ragionamento sulla funzione delle banche è un ragionamento che appunto spetta ogni cittadino, ma non necessariamente un PM, a nostro avviso. Altra cosa è dire attenzione, qui ci sono dei comportamenti che si stanno nel breve riproponendo. Devo dire che questa sensazione a livello mondiale l'abbiamo ricevuta da numerosi indicatori, il fatto che i bonus per premiare i manager siano stati di nuovo accantonati già nel 2009, gli utili sono tornati a essere altissimi, siamo contenti che i gruppi bancari tornino in utile perché tutto vogliamo tranne che la instabilità del sistema bancario e finanziario, però con quello che ci è costato riportarle inutile e garantire la sicurezza del sistema, forse qualcosa potremmo avere di ritorno, e soprattutto potrebbero avercelo gli imprenditori, piccoli e medi imprenditori, che stando a quello che dicono tutte le inchieste non notano alcun miglioramento nel loro rapporto con la banca. Mi dispiace insistere sul tema, ma è così, e qui siamo cocciuti, finché qualcosa non cambia continuiamo. Lo dice il presidente della piccola industria di Confindustria, Giuseppe Morandini, è intervenuto oggi a Verona, ha detto attenzione, praticamente la moratoria che dovrebbe sospendere o dilazionare i crediti delle banche verso le imprese non sta funzionando, si sta applicando molto molto lentamente. Mentre stanno funzionando altri protocolli, Morandini ha citato quello con Intesa San Paolo dello scorso luglio, che sta già dando risultati concreti con più di 2000 imprese che hanno usufruito della sospensione della rata del mutuo. Però attenzione, molto lenta l'applicazione della moratoria. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ultima parte di Focus Economia. Dicevamo la moratoria, lo ricorderete, ci fu un accordo un mese fa praticamente, in cui dentro al decreto anticrisi veniva previsto il congelamento per un anno delle rate da pagare per quello che riguarda i mutui e i leasing per le piccole e medie imprese, e quindi le piccole e medie imprese potevano avere anche un aiuto finanziario per quelle che decidevano di ricapitalizzarsi, ma soprattutto ottenevano il prolungamento di 9 mesi nelle scadenze del credito a breve. Tutte le imprese sotto i 250 dipendenti con un più di 50 milioni di euro di fatturato, e poi le piccole e medie imprese non dovevano avere ritardi superiori ai 180 giorni nel pagamento delle rate. Per la prima volta un'associazione di Confindustria è andata a vedere che cosa è successo in questo mese, ed è quella di Brescia, una delle più importanti, delle più grosse a livello nazionale. Buonasera al presidente Giancarlo Dallera, che è appunto presidente dell'Associazione Industriale Bresciana. Buonasera a lei. Allora, voi avete svolto un'indagine su un campione di 120 aziende associate. Io ricordo che l'Associazione degli Industriali di Brescia è una delle più grandi in Italia, sono 1300 imprese associate per un totale di circa 70.000 dipendenti. Che cosa è emerso dalle domande, dalle risposte soprattutto di queste 120 imprese? Abbiamo inviato un questionario a queste aziende associate, diciamo a tutte le aziende associate, e finora abbiamo avuto risposta per circa 120 aziende, il 10% circa del totale. Così diciamo dimensionate, 58% piccola azienda, 30% media e il restante grandi aziende. Vari settori diciamo delle attività produttive, 50% metalmeccanico, e il restante suddiviso fra alimentare, chimico, gomma plastica, terziario, materiale di costruzione. Cosa si è evidenziato? Si è evidenziato che negli ultimi 3 mesi, questa era un po' la richiesta, cosa è cambiato nel rapporto fra banche e impresa. Per il 60% delle risposte, delle aziende a risposta, non è cambiato nulla. Mentre per un 38% circa, esattamente il 37,6%, addirittura la situazione è peggiorata. Cioè lei mi sta dicendo che il 97% degli intervistati praticamente stiamo parlando di 118 aziende hanno avuto o nessun cambiamento o un peggioramento della situazione con la banca? Esattamente, questo però è stato il risultato delle prime 120 aziende che hanno risposto a questa indagine. Se lo aspettava? No, non me l'aspettavo perché a seguito un po' di tutti gli interventi governativi, istituzioni locali, pressioni del sistema confindustriale, eccetera, pensavo che qualche cambiamento in positivo sarebbe stato, diciamo così, notato, verificato. E invece questa risposta mi ha un po' sorpreso, soprattutto i motivi del peggioramento così indicato sono legati all'aumento degli spread che vengono applicati ai tassi di riferimento, e questo per circa il 60% delle aziende, e l'aumento delle commissioni bancarie, e questo per circa un 50% delle aziende. Quindi 60 su 100 vi hanno detto che la situazione è o peggiorata o rimasta come prima, e la causa è lo spread, cioè la differenza tra quanto costa il denaro alla banca, quello che è il tasso di riferimento interbancario, e quanto poi lo fa pagare a chi glielo chiede, da un lato, e un altro 50% invece ha lamentato anche l'aumento delle commissioni bancarie. Mi scusi, la moratoria quindi non è ancora partita? La moratoria non è ancora partita nella realtà, ma anche al riguardo di questa moratoria, che doveva partire, mi pare, se non erro, il 15 settembre, circa il 35% delle aziende aventi diritto hanno detto che faranno ricorso, mentre il restante 65% dichiara che non si avverrà di questo accordo, perché i motivi sono diversi, ma il principale sembra riconducibile proprio la scarsa fiducia nelle banche riguardo a questo ennesimo accordo. Ecco, è strano perché il presidente dell'ABI, cioè delle banche italiane, Faissola, proprio la settimana scorsa ha ricordato come il numero delle banche che ha aderito alla moratoria sui crediti è di quasi 400, cioè 31.000 sportelli, il 90% del totale degli sportelli italiani. Eppure i vostri associati, che sono quanto mai rappresentativi, non notano alcun cambiamento. Domanda per quello che riguarda invece gli osservatori sul rapporto credito alle imprese stabiliti nelle prefetture? Non ho dati al riguardo ufficialmente. Esperienza? Esperienza, diciamo, relativa. Ecco, qui sulle istituzioni a livello bresciano in questo momento sono, diciamo, ci sentiamo, ci vediamo, non dico settimanalmente, tutti stanno intervenendo, ma i risultati sono quelli che ho appena, diciamo così, comunicato. Che cosa chiedete? Glielo dico perché voi avete avuto come calo della produzione industriale Brescia, Bergamo e tutta l'asse pedemontana, laddove è forte nella meccanica industriale, nella meccanica di precisione, nei macchinari, utensili, sta soffrendo ancora molto. Lo dico perché invece da altre parti abbiamo visto qualche segnale migliore. Voi avete avuto l'ultimo trimestre disponibile un 25% in meno di produzione industriale in alcuni settori rispetto a un anno prima. Il fatturato è calato del 40%, 36 imprese che hanno chiuso tra luglio e agosto e 150 imprese che si sono rivolte al tribunale fallimentare contro le 118 dello stesso periodo del 2008. Cassa integrazione a 1,5 milioni di ore contro le 60.000 ore del 2008, ad agosto del 2008, nell'agosto del 2009, cioè il mese scorso, si era già a 1,5 milioni ore. Meccanica e metallurgia sono i settori più colpiti, e complessivamente da inizio anno avete avuto 26 milioni di ore di cassa integrazione, il 5.000% in più rispetto ai primi 8 mesi del 2008. Sono numeri molto pesanti, ripeto, Brescia, Bergamo e altri centri e realtà economiche sono più colpite di altre parti del paese. Che cosa chiedete? Due cose importanti da fare oggi. Uno, aiutare il mondo delle imprese con la cancellazione dell'IRAP. Questo è assolutamente una cosa da farsi molto molto alla svelta. La tassa IRAP a Brescia significano 321 milioni di euro. E secondo, abbiamo detto che se vogliamo ovviamente aiutare i consumi interni bisogna far qualcosa sul lato tassazione del lavoro dipendente, e quindi detassare quelli che sono i salari, soprattutto per tutta quella parte del salario che è legata a benefit, super minimi aziendali e quant'altro. Avete anche chiesto la sospensione delle norme di Basilea 2, quelle assolutamente, questo per 18 evitare mesi. Proprio quella che è l'erogazione del credito. Sì. La sospensione di Basilea 2 per 18 uh-huh. mesi, 2 anni, per fare in modo che quindi anche le banche possano dare più credito. Allora, Basilea... Noi abbiamo deciso anche che nei prossimi giorni faremo qualcosa in più, faremo partire un osservatorio su 10 o 15 aziende i cui nomi resteranno anonimi e che documenteranno alla nostra associazione il comportamento dei vari istituti di credito in merito a tutti quei fattori che prima ho citato nei prossimi 5 o 6 mesi. Questo è un'ulteriore verifica di quello che è il comportamento del sistema del credito nei confronti delle aziende. Ecco, e se il governo, come è probabile, non riuscirà a tagliare l'IRAP, perché non può privarsi dell'IRAP in questo momento, vista la congiuntura, quale altre iniziative? Dovrà trovare un altro modo per supportare veramente nei fatti quello che è l'impresa. Qualcuno mi deve spiegare come un'impresa italiana che ha il costo del lavoro che fa i più elevati, che ha il costo dell'energia che è del 20 o 30% superiore, che ha una tassazione che arriva al 47-48%, come fa a competere con paesi, Europa, soprattutto Europa dell'Est, voglio dire, che sono a un'ora di aereo da noi, laddove il costo del lavoro è 3-4 volte inferiore, l'energia costa il 20% in meno e la tassazione è al 19%. Io chiedo a chi deve operare e deve agire a riguardo di indicarci un'altra strada per essere competitivi. In bocca al lupo, perché grazie. Ne avete bisogno voi, come tutti i vari imprenditori, artigiani, commercianti che sentiamo in questi giorni, in queste settimane. Grazie al presidente degli industriali di Brescia, Giancarlo Dallera, per averci ricordato soprattutto quello che è emerso come lavoro empirico, cioè andando a fare domande a 120 imprese. È cambiato qualcosa nel rapporto con la banca? Il dato è sconfortante, il 97% dice, lo ricordo, che o non è cambiato nulla o è addirittura peggiorato. Grazie Presidente Dallera. Grazie a voi, buonasera. Alcuni ascoltatori al 349-238-6666 dicono ma sono sempre le imprese che si lamentano, non gli va bene niente. Per carità. Non è mai stato un programma manicheo questo, in cui i buoni sono da una parte, i cattivi dall'altra, il bianco e il nero, lo sappiamo tutti. Però noi continuiamo a ricevere questi segnali e di questo parliamo. Quando avremo dati, chiamiamoli così, empirici, in cui ci verrà segnalato un miglioramento del rapporto banca-impresa, riporteremo molto volentieri, con estremo piacere, anche questo. Finché non l'abbiamo, ci limitiamo a riportare i fatti di cui veniamo a conoscenza. Da Sebastiano Barisoni l'augurio a voi in ascolto di una buona serata. Noi ci risentiamo come sempre domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia.